Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Se Renzi facesse una politica di destra, come sarebbe compatibile con D'Alema e compagni, con Bersani e compagni, con Cuperlo e compagni? Che si ribellino, ma evidentemente ha rottamato anche loro, quindi non è un problema nostro. Semmai per noi il problema è dargli e non dargli la tessera di Forza Italia a Renzi, ci stiamo pensando. Ci stiamo pensando, avete sentito Brunetta, dare la tessera di Forza Italia a Matteo Renzi. Brunetta è così, è scoppiettante nelle sue proposte. Alle 6:31 minuti siamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, con l'alpino Peter Bescapè in regia. E questa è 24 mattino, Vi do subito il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. Che state facendo? Siete allegri? Siete allegri? Siete allegri? Ho detto allegri, Peter Bescapè. E ti vedo sorridente, infatti. Vedi che sei allegri. Allegro? Vabbè. Allora dai, apriamo subito il Parlamento. Su, forza, forza. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Voglio subito chiedere se è allegri, allegro anche Paolo Del Debbio, il nostro Paolino Del Debbio. Molto allegro, come va? Tutto bene, tutto a posto, il conduttore di quinta colonna su Rete 4 il lunedì in prima serata. Chi avrai lunedì, che così poi dopo vieni smentito? L'ultima volta hai detto Rosy Bindi e poi è comparso Renzi, poi settimana dopo è arrivata la Bindi, con calma. Visto? Lunedì non te lo dico. No, accidenti, porco. Vabbè, allora manteniamo il mistero. Manteniamo roba il mistero. Buona, roba fresca. Roba buona. Allora ti presento la nostra direttorissima, la direttora Aurora. Che è una caspa. Aurora Lussana, direttore della Padania. Eccomi qua, buongiorno caro Milan, un caro saluto a te, un caro saluto agli amici di Radio 24, lo sapete, la seconda radio chiamata dopo Radio Padania. Libera. Mi piace solo di non averti potuto vedere sabato in Piazza Duomo, d'altronde c'erano 100.000 persone contro l'operazione Mare Nostrum per dire stop invasione. Vedi che allora, non ci siamo incrociati. Non ci siamo incrociati, mi dispiace. Posso sapere dove sei? Se sei in un asilo dove cantano 50 bambini? Cos'è? No, allora basta, scusa. No, aspetta. No, stavo vedendo l'albero degli zoccoli. L'albero degli zoccoli del Debbio, di qualcosa. Alle 6:30. Come no, va? Non ho trovato il DVD di Apocalypse Now oggi. Allora guardavo la. Ma perché non ti piace Ermanno Olmi adesso? Ma Ermanno Olmi è un genio. Una volta ho avuto anche l'onore, il maestro, di averlo qui è in onda. Sì. E cosa c'entra però? Vabbè, ma scusa, ma la mattina potrò vedere i film che voglio, non lo so. No, ma certo, io pensavo ci fosse una ricorrenza, un qualcosa. Perché oggi che giorno è? Oh, porca miseria, oggi è il compleanno di mio fratello. No. Vedi che meraviglia, no? Ascolta, invece, io del Debbio l'ho visto lunedì sera, una trasmissione meravigliosa, c'era ospite ovviamente Matteo Salvini. Ovvio, è vero del Debbio, confermi? È così, ma io mi sento sfiancato da questa energia della Lussana, sono sfiancato già, non ce la posso fare. Sei sfiancato, no, mi pensavo... sento in un ambiente panico e orgiastico. Sì, quasi un'orgia basailiana direi oggi. No, assolutamente. No, ma scusa, ma sbaglio, ho fatto un botto d'ascolti con Matteo Salvini, che è l'unico antidoto al razzismo contro il partito unico del Nazareno, o sbaglio? Sbaglio del Debbio? No, è andata bene, però ma grazie. Abbiamo fatto anche la settimana prima, insomma, comunque Matteo Salvini è un uomo molto televisivo. Contenta? Nonostante Vittorio Feltri dica che si veste male, oggi Matteo Salvini è anche in prima pagina su Panorama. È vero, si veste male, così dice Vittorio Feltri. Ma Noeminga è un fighetta, dai, su. Del debbio, Noeminga è un fighetta di quelli che si mettono giacchina e cravattina. Guarda, ieri gli ho mandato un messaggio, sì? Dove gli ho scritto, vai avanti per la tua strada, e lui mi ha risposto, mi cambio le mutande tutti i giorni. Questo è lo scoop di Salvini, ma mutande o boxer? Ha detto mutande. Mutande, i mutandoni, mi cambio i mutandoni tutti i giorni. Vabbè, allora, visto che si sta parlando di Lega e leghismi, è vero, Salvini è in copertina di Panorama. Senti, lo conosci? Sì, anche in prima pagina sulla Padania, infatti oggi c'è l'operazione svuota edicole. Beh, insomma, la Padania. È incredibile, oggi la Padania apre su Matteo Salvini, incredibile del debbio, eh. Questo, la Marie Le Pen. Questo è uno scoop. Ma dicevo, ma se la Lussana è così alle 6:30, no? alle 11, no, che ma fa? Dico anche verso mezzanotte, per guardare com'è, cioè io non lo so, sono meravigliato, è come fossi davanti all'Etna, capito, in eruzione, cioè. Davanti all'Etna, vabbè, insomma, sono queste meraviglie della natura. Come sei Lussana a mezzanotte? Ma stai balbettando? Mangio polenta, mi salgono gli ormoni, non lo so, sono così, cioè non lo so. È l'albero degli zoccoli che la rinvigorisce. Andiamo avanti. Allora, cara Lussana, conosci il signor, com'è che si chiama questo Bosco della Lega? Ah sì, quello dell'Emilia Romagna, sì, che è candidato giù. Sì, lui è un esponente della Lega. Sì, ha fatto questo video ironico e satirico, giusto. Del debbio, senti, sì. Qui candidato al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, il leghista Bosco, senti, Hai difficoltà a pagare l'affitto? Prendi in casa Abdullah e Alfano ti regalerà 900 euro al mese. Il mutuo ti strozza? Ospita Fatima sul divano. È incinta, presto il contributo raddoppierà. Hai paura di spendere tutti i 900 euro per l'immigrato? Non c'è problema, lo chiudi in cantina, pane e acqua e un secchio per i bisogni. Fino a ieri il business dell'invasione era riservato a scafisti. Ma ti rendi conto del debbio? Anche tu potrai lucrare. Ma ti rendi conto il video satirico? Il secondo Lussana. Prendi Abdullah. È un bosco senza alberi questo qui. Prendi Abdullah in casa e se pensi di spendere tutto per lui, dagli pane e acqua e un secchio per i bisogni chiudendolo in cantina. Ma Aurora. Allora, ieri. Cosa c'è da ridere di questo video? Satirico. Allora, aveva bevuto Bosco, aveva bevuto un paio di bottiglie di Lambrusco. Allora, con l'operazione Mare Nostrum sono sbarcati in Italia 150.000 clandestini, richiedenti asilo, fonti del Ministero dell'Interno, non sono nemmeno 4.000. Quindi parliamo di 1.224 sbarchi ieri. A queste persone non lo puoi negare. Ma ho capito, ma è questo video, mettili in cantina, pane e acqua. Al giorno abbiamo gli esodati, abbiamo i cassi integrati, i cosiddetti oblie, come dice Marie Le Pen, i dimenticati, no? Ai quali non garantiamo più uno stato sociale. A questi, l'ultimo che sbarca con Mare Nostrum, garantiamo più di 30 euro al giorno. E sai benissimo che alcune associazioni veri Caritas, tutta questa industria della carità, avevano fatto questa proposta, cioè che il cittadino ospitasse un presunto profugo in casa sua e gli girano il bonus che prendono loro. Ho capito, ma cosa ha fatto? A parte che Ermanno Olmi, non è, vabbè, ok, il video è una roba, video lo non trovate è anche basso. Sul nostro portale Padania.net, ecco, eccola. Ma ho capito, ma li mettete in cantina, pane e acqua, col secchio dei bisogni. Ma ti sembrano in cantina pane e acqua quelli che sbarcano? Ma no, appunto, ma dai, su, per favore, vanno le trastelle, vanno gli agriturismo. Niente, dai, del debbio, è così, era satira. Siamo figli degli Stati Uniti, a noi della Padania, che ha detto, ma è vero che vivono negli alberi. Vabbè, dai, del debbio per delle bischerate, che dobbiamo fare? Così. Ma no, ma sono cazzate, cioè nel senso di dire... La Lussana dice delle cose sacrosante, che non va bene le cose. Dopodiché, se c'è uno nella Lega che dice cazzate, bisogna dirlo. Allora Bosco ha detto una cazzata, punto. E il resto, questo non inficia è un inficia il messaggio della Lega, secondo me. Però il Bosco Bosco così. Vabbè, dai, Bosco, va un attimo curato, dai. Recuperiamo così, c'è un messaggio che mi dice: Aurora, la donna dell'amore orgiastico, la amo. Ancora. No, ma un messaggio, anche se è padana, aggiunge. Sì, sarà un diversamente padano. Ecco, ti mettiamo sempre la tua diversamente padana. Ogni tanto mettiamo Paolo De Debbio la musica di Eyes Wide Shut a Aurora. Che è una denuncia contro la deriva di un amore meccanico e ovviamente inficiato dal consumismo. Oh. E qui tu quando senti questa musica di sottofondo, sempre cosa c'è? Cioè, perché va bene l'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, ma poi io sono comunitarista, lo sai, quindi amo i film che elogiano le comunità locali. Ah, va bene. Eyes Wide Shut, anche quelle toscane, anche quelle. Vabbè, ma Eyes Wide Shut era una cosa un po' diversa dall'elogio delle comunità. Era un po' diverso. Vabbè, ma comunque vorrei. Sono comunità molto locali. Sono molto comunità, anche fanno molto comunità. Sì. Però vorrei, Paolo Del Debbio, un giudizio su quello che succede in Europa. Adesso tutti appesi a questa Europa che ci deve bocciare o promuovere la legge di stabilità. Lì pare che ci siano le due correnti. Barroso pare che ci avesse spedito una lettera stroncante la nostra legge, è intervenuta la Merkel a smussare, a dire no Barroso, non esagerare, come finirà? Ma credo che a occhio e croce finisce che vince la Merkel, non per il potere di sempre della Merkel, della Germania, ma per il fatto che cominciano ad avere un po' di pezzette dietro la schiena o pezze anche la Germania, e quindi sai, quando è come quelli che giudicano sempre i figli degli altri perché fanno delle cose sbagliate, poi fanno anche il proprio figlio e allora diventano tolleranti, no? E ora, siccome la crisi economica li sta magnando, ma in modo serio, non in modo da poco, e quindi si rendono conto che una non politica possono fare stringe, esatto, e quindi allora la Merkel non è che ha una passione per Renzi, magari ce l'ha anche, ma panica, diciamo. E però nel frattempo è orgiastica, però nel frattempo fa due conti in casa e quindi ha deciso che forse è meglio correre ai ripari per l'Italia, perché dopo ce ne avrà bisogno. Salviamoci così, Renzi, ci devi provare con la Merkel, che magari si smussa un po' nelle sue insomma, ragazzi, potremmo fare così. Coraggio, dai. Aurora, Matteo, potremmo salvati dalla Merkel. No, credo che su di lei non vinca la dimensione ancestrale dell'amigdala, credo che abbia un grande controllo delle sue pulsioni. Cos'è la visione ancestrale dell'amigdala? No, nel senso sì, quelle pulsioni lì le controlla bene. No, il problema è che Juncker del Debbio, cos'è? Sì, è che amigdala, salvaci tu! Amigdala, salvaci! Amigdala! Sì, dovremmo ascoltare di più la nostra amigdala. Allora, Juncker ha detto: serve più disciplina. Lui è un lussemburghese, famoso il Lussemburgo per Lussemburgo. L'evasione fiscale. Salutiamo tutti gli amici del Lussemburgo. Certo, perché c'è l'Unione Europea, ma anche c'è l'Unione Fiscale. Eccola. Juncker ha detto serve disciplina, quindi basta, si dovrà adeguare il parolaio fiorentino. Il parolaio fiorentino. Tanto c'è l'antidoto al renzismo che è Matteo Renzi, e quindi è un parolaio secondo te, come il parolaio. Senti a proposito di parole, no? Il tuo capogruppo Fedriga si chiama, giusto? Fedriga. Sì, Massimiliano. Ecco, Max. Tu come lo chiami? Max. Fedriga, sentilo ieri al Parlamento, senti Del Debbio. Lei non è il presentatore di qualche talk show o di qualche talent show. Lei non è la spalla di Maria De Filippi, lei è il Presidente del Consiglio. Quando si è sentita paragonata a Maria De Filippi è passata al riguardo. Lei è il Presidente... Presidente del Consiglio, dopo la forse non è solo lei la spalla di Maria Di Filippi, ma anche la Presidente della Camera alla sua spalla. Guardi, lei si rivolga con rispetto. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Presidente, guarda come conducevano i tuoi predecessori. Ma impara qualcosa da chi è stato lì prima di te, cazzo. E quindi... Questo è Davide Caparini. Li riconosci così dalla voce? Questo è Davide Caparini. Io sono i servizi segreti padani. Capito. Sì, perché la papessa, donna Prassede, cioè la Boldrini. Sì, bene. È molto in sofferenza con più bella. La Lega. Vabbè, donna Prassede, ma dove te le inventi? Ma dove le pensi? Quando le pensi? No, vabbè, mi piace Alessandro Manzoni e nei Promessi Sposi, ho capito, ma... il catalogo dell'umanità che ci circonda. Ah, ecco. Quindi peschi lì, peschi sempre dal Manzoni, è facile. Però Igmelda. Cos'è Igmelda? No, come si chiamava? L'amigdala. No, l'amigdala cos'è? Questa roba nel cervello, cos'è? L'amigdala. Beh, comunque io direi che più che la spalla della De Filippi, ormai la spalla della DURS, no, nel senso, dopo le storie. Però io qualche domenica c'è un altro ospite della DURS. Cioè? E c'è un altro ospite, guardate la DURS. Ci sarà Salvini, ma porca miseria, Salvini. Porca miseria. Stamattina ho aperto il frigorifero alle 5 e c'era Salvini. E mi è uscito, mi ha detto, uè, come va? Ma per fortuna, se no avremmo già il partito unico del Nazareno. Mamma mia, dai, andiamo a sentire il traffico, dai, andiamo a sentire il traffico, che poi entriamo con la nostra segreteria telefonica con Paolo Del Debbio e Aurora Lussana. 24 mattino. Sai cosa ti dico, Milan? Che finché gli italiani non mangeranno un pezzo di pane e una cipolla scondita, come dice il nostro radio ascoltatore, andremo avanti sempre a pagare le tasse, sempre. Sai perché? Perché siamo degli italiotti. All'Olimpico la Roma battuta per 7-1 dal Bayern Monaco. E lì la metafora del periodo che stiamo vivendo. Quelli che chiacchierano, i più forti siamo noi. E quelli che rullano, 7 gol, il Bayern. Buongiorno Milano. È inutile acciuffolare quando l'asino non vuole berbere. Io glielo sono detta a mia moglie che volevo fare l'amore oliastrico con il panico, come dice la signora Lussana Padano. Ma il panico mi è venuto a me quando mi ha corso appresso con lo scimmi masso. È possibile che quel pagliaccio se la prenda sempre con i pensionati? Sindaco di Roma Marino, chiedo come si permette di fare quelle stupidaggini delle trascrizioni gay. Allora, poveretto, il suo culo lo scaldi su un'altra poltrona, che vada a vendere bistecchina alla festa dell'unità. Alessandro, ti prego, sto sentendo la Lussana. Oh mio Dio, ma perché ce la fai sempre sentire? Mio Dio, consigliale anche di fare un po' di lezioni di dizione, che non si capisce niente quando parla. Capito? Io. Mamma mia. Del Debbio, ma l'hai sentito quella dell'amore? Ma sai quanti corsi di dizione ho fatto? Sì, ma infatti, per avere questa bella inflessione bergamasca che ho, una fatica terribile. Dimmi la frase in bergamasco che ti viene meglio quando ti svegli al mattino. Acalacalà, crancalacalà. Che cos'hai detto? Questo era arabo. Assolutamente arabo, però. Non era bergamasco. No. Acalacalà, che l'ancalacalà, vabbè, però ragazzi. Del Debbio, traduci tu, per favore. Acalacalà, che l'ancalacalà. Beh, bravo, vero? Sì. È l'unico pirla sono io. Non ho capito. No, ma io non ho capito niente, l'ho ridetto e basta. Vabbè, ma l'hai sentito Del Debbio, quello dell'amore? Io voglio fare ogliastrico. Anche l'amore con panico. Ogliastrico, il panico. Ma chi è panico? Dove l'ha trovato panico? Panico, forse. Panico, il panico. Panico, quello che si dà ai pappagalli. Ma... Ah, il pappagrillo. Il panico. E vabbè, è così, è la nostra segreteria telefonica. Il nostro contenitore di tutto, Aurora, che c'è da dire? Hai visto che si arrabbiano un po' con te gli ascoltatori, Sì, ma siamo abituati a questa discriminazione noi bergamaschi, abbiamo questa forte influenza, purtroppo lo sappiamo, abbiamo anche un premier toscano, quindi voglio dire... Ma dimmi, adesso tra poco finisce la trasmissione e inizia a lavorare in bergamasco. Sì, che bisogna andare a lavorare. No, beh, quello è molto... No, vabbè, do a lavorare, ecco, lo si capisce. Ah, vabbè, do a lavorare. Vabbè, insomma, tutto per non parlare di... Di chi? Questi tagli alle regioni virtuose. Mamma mia, del Debbio, il tema, è il tema. 75 milioni che il governo deve alla regione Lombardia per le cure clandestine, prima pagina oggi della Padania. Ma capito, ma avete, ma del Debbio, ma hanno le notizie solo loro? Cioè, non lo so, queste cose. Cla. Esatto. Vi voglio far sentire però un redivivo, un ritorno, colui che siederà presto sulla sedia di Paolo Del Debbio, l'uomo che sposta gli ascolti verso l'alto a grandi... Bertinotti, senti qui, Bertinotti, Fausto Bertinotti. Ed è per questo che mi affascina, perciò essere diventato guelfo, la figura di Papa Francesco, perché secondo me in Occidente è l'unica voce che è in grado di parlare del futuro di una civiltà. Paolo Del Debbio. Capito. Vabbè, è un po' la conversione di Bertinotti. Ma qui dov'è la notizia? Cioè, non c'è una notizia. No, con tutta onestà, con tutto il rispetto per Bertinotti e tutto, questo... Puoi dirlo con parole tue, come ti Ma non so neanche cosa dire, Ha detto bene di Papa Francesco Bertinotti, non vedo la... Ora c'è tutta questa attenzione a Bertinotti che ha detto che è fallito il comunismo. Sì. Adesso è affascinato dal Papa. Bisogna abbracciare il Papa, insomma. Ce le dica tutte insieme, in una volta... E così capiamo qual è il nuovo pensiero. Insomma, abbiamo capito che Bertinotti non sarà l'ospite di lunedì di Paolo Del Debbio. Ecco. Non sarà neanche Salvini. No, ma persona rispettabilissima, ho molti problemi come anche te, eccetera, come tutti. Quindi vorrei sapere, mi interessa sapere che pensa Bertinotti. Ce lo dica una volta in un libro, tutto insieme, così sappiamo qual è il nuovo pensiero. No, non dirlo perché l'ha fatto il libro, l'ha fatto. Sì. E quindi l'ha fatto. Vabbè, andiamo avanti. No, andiamo che avanti palle. Gli ho ucciso la mattinata del Debbio. Aurora, devi subito tirarlo su perché di qualcosa per tirare su Del Debbio. Ma su Bertinotti è la desublimazione del comunismo, non so cosa dire. No, devi tirare su Del Debbio. Io voglio il vocabolario, il novissimo Lussana. Sono i promessi sposi, cioè facciamo il Lussanelli dopo lo Zingarelli. Il Lussanelli. Oh, anche io sono una promessa sposa, portare rispetto. Ma quando è che ti sposi, appunto? Ma tu non ti sposi? Ma non lo fai un bambino che c'hai 90 euro da... Sì, no, infatti mi devo mettere giù un po' di impegno, sì. Mi prendo un permesso dalla Padania. Del Debbio, sì. Abbiamo capito che si sposa la Lussana, questa è la notizia vera, altro che Bertinotti. Ma ti sposi veramente? Spero, sì, che il mio promesso sposo. Ma c'è una data, Celtico, panico? Beh sì, insomma, spero che sia un amore panico orgiastico come gli amori più autentici. Ma magari il tuo marito, il tuo futuro marito non lo spera questo, però non lo saprà. Ma l'amore orgiastico può essere con un esercito o con un solo uomo tutta la vita. Qui mi devo fermare perché qua degeneriamo. Alla prossima sveleremo il mistero matrimonio Lussana. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti. Forza, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e vi anticipo che oggi avremo ospite alle 8:15 Caterina Simonsen. Chi è? È quella studentessa di veterinaria che un anno fa, no, qualche mese fa, fu attaccata molto, una ragazza molto malata, 4 malattie rare, e fu attaccata molto da alcuni pseudo-animalisti perché si spese a favore della ricerca scientifica, anche con sperimentazione di animali, sugli animali. Oggi

Buongiorno. Intanto come va? Come stai? Benino. Devo cominciare l'antibiotico nuovo oggi, ma a parte questo bene. Inizio di polmonite. Insomma, come dici tu stessa, tra l'altro sei diventata famosa tuo malgrado, quando hai pubblicato circa un anno fa, credo, questa foto in cui ti si rivede e con un cartello scritto «Io, Caterina, ho 25 anni grazie alla vera ricerca», ma che sì, include la sperimentazione animale. Sì. Non l'hanno presa bene tutti. Esatto. No, però cioè, ho capito che ognuno crede nelle proprie cose, quindi è inutile star lì a spiegare. Se uno crede che il pomodoro sia arancione e tu sai che il pomodoro è rosso, vedi che il pomodoro è rosso, continui a spiegargli che è rosso e quest'altro è convinto che sia arancione, c'è niente da fare. Per esempio, un'ora fa io... di fiato e basta. Beh, insomma, questa tua straordinaria ironia poi e autoironia magari la approfondiremo. Io un'ora fa, nell'annunciare la tua presenza in rassegna stampa, ho ricevuto subito, ecco, per dire un messaggio: ospitate Caterina, fate schifo. Anche tu, cioè riferito a me, fai schifo perché così torturate gli animali. Tu cosa rispondi veramente a queste persone? Che... Allora, in realtà il libro è andato ben oltre, cioè nel senso, non so se l'hai letto, però il libro parla della mia vita e certo, non degli animali, e sì, parlo di quello che è successo a dicembre come uno dei tanti fatti della mia vita, quindi sono due cose che sono due cose diverse. Certo. Cioè, nel senso, il libro non parla di sperimentazione animale. Assolutamente, assolutamente. E no, poi il libro la cosa più divertente, ti faccio fare due risate adesso, avrei sentito che si saranno inventati quella cosa della tipo farmacia Simmons negli Stati Uniti, sì, eccetera. Che esiste un autore Simmons che ha scritto un libro sul veganesimo. Persona che non c'entra niente con te. L'omonimia, persone che non c'entrano niente con me, non c'entra nessuno, però per dire, allora conveniva farci entrare gli Simonsen degli Stati Uniti e non il Simonsen che ha scritto bisogna essere vegani. Ecco, ma di tutte queste accuse che cosa ti rimane? Cioè, perché ti hanno fatto accuse anche molto molto molto brutte, insomma, non è che sono andati per il sottile. Niente ti è rimasto? Non ti hanno... nel senso che hanno accusato eccetera, hanno accusato di cosa poi? Che mi curo? Che non sono innamorata di niente? Cioè nel senso, se sono cose che io so il contrario, che mi sai come una persona serena con se stessa? Cioè nel senso, io uccido molto meno animali di quanto queste persone in genere non facciano per vestirsi. Io non, cioè praticamente non, e poi tra l'altro non frequento l'università da un anno e mezzo, cioè non, in realtà non ho mai ucciso un animale di mano mia, stiamo scherzando. No, di mano tua no, l'accusa è di dire i farmaci che ti aiutano sono farmaci e tu l'hai detto sperimentati anche grazie alla sperimentazione. Mangi la carne? Io sì. Hai ucciso più animali di me in tutta la mia vita. Queste persone che ti accusano, queste persone che ti accusano, forse no, non la mangiano. Immagino se fosse sono coerenti. No, questa persona che non la mangiano, se sono coerenti, hanno smesso di mangiare la cosa 5-6 anni fa. Io ho smesso di mangiare la carne a 7 anni, cioè praticamente sono 20 anni che non tocco animali. Voglio vedere loro quando arriveranno a questa conta di non uccidere così tanti animali quanti non ne ho uccisi io. Cioè, scusa, ma io cerco di fare il bilancio, di fare il meno impatto possibile. Sì, non posso fare a meno della ricerca, però posso fare a meno di tutto il resto. Uno, e poi questi discorsi non staremmo a farli se vivessimo ancora della carne, cioè... Nessuno va a fare questi discorsi a chi vive, all'africano poveretto che ha la sua mucca, che ha bisogno del suo latte, che quando muore se la mangia. Perché, Caterina, hai deciso di scrivere questo libro, che tra l'altro si chiama Respiro dopo respiro, che è anche una frase che tu hai tatuata, se non sbaglio, anche se in inglese. Sì. Allora, avevo deciso di scrivere, avevo abbozzato, avevo ancora dell'età di pediatria, alcuni racconti dei miei compagni di stanza, perché sono davvero ilari, cioè ci sono delle storie fantastiche, non li ho ricordati neanche tutti in quel libro lì, cioè solo alcuni che mi hanno colpito di più. E c'era sempre questo progetto del prima o poi lo farò, prima o poi lo farò, solo che sono sempre stata pigra. Quest'anno me la sono vista davvero, davvero, davvero, davvero, davvero brutta, nel senso che se mi operavano morivo, se non mi operavano morivo, e alcuni medici erano per non operiamo tanto muore da sola, oppure proviamo un tentativo disperato e magari vive, in fondo era più o meno una situazione del genere, perché avevo un polmone che si era collassato, l'altro si era spostato, il cuore si era spostato, quindi il mio torace sembrava un quadro di Picasso. E arrivati a quel punto lì ho detto, ma tutte le persone che ho conosciuto e che magari non ci saranno più eccetera rimarranno senza niente, perché io volevo lasciare un ricordo loro, cioè volevo che gli altri conoscessero loro. Allora mi sono messa in contatto con Daniele, che aveva avuto che poi ha cercato eccetera. Ho detto, Daniele, se io ti racconto le cose, perché non ero in grado, cioè proprio ero distesa con i tubi sul torace, perché era l'unica cosa che aiutava un pochino, erano questi tubi che mi mettevano. E allora pian pianino, in 6 mesi, ci vedevamo una volta alla settimana e gli raccontavo mezz'ora. E infatti Daniele Mondarpizio ti ha aiutato a scrivere questo libro, un libro nel quale tu parli molto anche del tuo futuro, delle tue passioni, di quelli che sono i tuoi sogni. Qual è il sogno che hai nel cassetto? Il sogno che ho nel mio cassetto è andare a vivere la mia vita tranquilla, cioè nel senso, la mia casetta adesso l'abbiamo trovata, spero di entrarci entro fine anno e star lì come amoroso, fare una vita normale e aspettarlo che torna dal lavoro e fargli da mangiare, insomma. Forse mi trasferirò a biologia per poter fare una ricerca. La realtà è che, stando alle condizioni fisiche mie, io non riesco a sopportare un turno di lavoro, mi hanno dato l'inabilità lavorativa, c'ho ben poco da fare, sarò felice a star come amoroso. Ci sono tante cose, però tu racconti anche di avere uno humor a volte nero, a volte nerissimo, qualche battuta ce l'hai già sì. Confermato, ma che cos'è che ti fa sorridere durante la giornata? Tante cose o ce n'è una in particolare? Tutto, per dire, anche tipo, io di solito mi sveglio presto la mattina per prendere le medicine che vanno prese a digiuno, dopo 10 minuti vado in cucina a far colazione e poi torno subito a letto, perché odio la mattina, dormo sempre, quindi faccio le terapie e poi buonanotte. E penso che c'è la signora che ogni tanto viene a dare una mano qua a casa, che ha già capito come funziono io. Infatti la signora che c'era prima di lei spesso non faceva camera mia mamma si arrabbiava perché doveva farla lei eccetera, perché deve essere sempre pulita, se dipendesse dall'altra era sempre sporca 10 giorni. Questa qua ha già capito tutto, molla tutto, non importa quello che stia facendo, mi ritrovo finestre aperte, lei che mi sta facendo la... Se non faccio adesso non riesco a farti la tua stanza. Io cavoli, volevo dormire. E vabbè, e senti, la copertina... questo secondo mi fa ridere. E questo è bellissimo. La copertina del tuo libro, forse è una scelta, immagino, non casuale. Ci sei tu e c'è un cane, il muso di un cane. Chi è quel cane intanto? Hermes. È il tuo cane? Io ho 3 cani. 3 cani. Eros, Hermes e Oliver. E lui è Hermes. Ma hai voluto mettere... E non è preferito rispetto agli altri. Questo no, se no poi si offende, gli altri due si offendono, lo sappiamo come sono i cani. Ma hai scelto questa copertina anche come risposta a tutte le accuse che ti hanno fatto? No. Allora, i cani sono dei miei, cioè nel senso, sono stati comprati per i miei genitori, cioè li sentiamo nostri come di famiglia, diciamo così. Non so se i tuoi avevano un cane, però sono i cani di famiglia. Io e i miei, che li avevo come proprio se fossero i miei bambini, avevo i miei furetti. e i miei furetti purtroppo sono entrambi morti di tumore, uno al tumore, ha avuto un tumore al cervello e l'altro al fegato. E loro sono stati la mia vita, infatti volevo parlare molto più di loro nel libro, sono stati davvero la mia ragione di vita e mi hanno portato sulla retta via, su tutto, e a riflettere. E volevo che ci fossero loro, però non andava bene. Così come non andava bene scrivere, dovevo fare un'autobiografia e scrivere tipo 10 capitoli su Furetti. Questo sì, chissà, magari sarebbero stati anche interessanti, dipende sempre da come uno li scrive. Anche se era quello che avrei scritto io, però senti, mi hanno detto dall'edizione non va proprio benissimo. Non va benissimo, non vende molto 10 capitoli sui Furetti. Devo dire, Caterina, arrivano anche, te lo dico per compensare, se serve una compensazione, tantissimi messaggi di solidarietà e di vicinanza a te. Sai che le cose, secondo me, più terribili che hanno detto non sono stati gli insulti fini a se stessi, ma per esempio il saranno malattie tutte inventate ed è una montatura delle case farmaceutiche. Questa è stata una cosa bellissima che mio papà si è incavolato tantissimo, perché allora una che si era detta così, ho detto: guarda, nessun problema, ho fatto le foto col cellulare dei certificati INPS. Perché chi meglio del certificato INPS e USL, che sono fatti insieme dell'invalidità, dove descrivono la malattia, dicono quanto sei disabile, dicono se hai l'handicap, la disabilità e così tutto. Ah, ma purtroppo in questo caso copriamo il codice fiscale e copriamo l'indirizzo. Ho fatto girare 2 secondi e mio papà si è arrabbiato tantissimo. Certo, ma perché è triste dover arrivare a quel livello, voglio dire, di dover dimostrare di avere... Dal momento che dici di avere qualcosa, devi essere anche in grado di provare di avere qualcosa, quindi io non ho nessun problema. Sapessi quanto... Adesso sembra che essere malato vuol dire... Posso dire la mia... su qualsiasi argomento, dopo che io ho parlato. Infatti hanno creato un gruppo, che vabbè non sto a dire per non far pubblicità, dove ci sono degli infiltrati, miei amici, dove si sono inventati di avere il cancro, si sono rasati la testa e le sopracciglia per poter dire la loro, dicendo di avere il cancro, e si sono dimenticati di rasarsi il pelo dei i peli del petto. Dei geni, va così il mondo, ridere per non piangere. Cioè, io credevo che l'umanità fosse un po' diversa, mi sono resa conto che l'umanità è questa e si impara a vivere anche così. Intanto, io sono serena con me stessa e basta. E questo è quello che conta. Noi, Caterina, ti mandiamo un forte abbraccio per quello che può servire. Anche a te. Grazie intanto. Anzi, anche a tutti quelli che ascoltano. Tutti quelli che ascoltano e che ti sono molto vicini. Guarda, poi ti girerò i tanti messaggi che sono arrivati. Ti ringrazio davvero per essere stata con noi. Grazie. Voglio ricordare il tuo libro, ovviamente, di Caterina Simonsen, il libro edito da PM, Respiro dopo respiro. Lo trovate ovviamente in libreria. Grazie a Caterina Simonsen. Dopo la pubblicità parliamo di scuola, cambiamo pagina, torniamo su un argomento che abbiamo toccato anche nei giorni scorsi, e lo faremo raccontando una vicenda che viene dal Piemonte, abbastanza surreale, di due maestre che hanno dato un compito in classe. Parliamo di scuola elementare. Chi uccidereste prima, tra il papà e la mamma? Queste maestre sono state sospese. 24 mattino. Io sono 9:39 minuti, eccoci qua. Sono veramente travolto e ringrazio ancora Caterina Simonsen per essere stata con noi. Ringrazio anche tutti voi, cari ascoltatori, ci avete scritto decine e decine di messaggi. Non riesco neanche a stare dietro, di solidarietà, di vicinanza. Prometto che li gireremo tutti a Caterina. perché credo che sia importante per lei anche sentire quante persone le possono manifestare questo affetto, questa vicinanza. Vogliamo parlare però di scuola ora, vogliamo parlare di scuola, una storia che proviene dalla provincia di Torino, Scarmagno, un piccolo paese, dove due maestre della scuola elementare sono state sospese in via cautelativa dal provveditorato agli studi perché proponevano agli alunni temi shock. Uno su questi: chi uccideresti prima, mamma o papà? Ma poi anche, pare, espliciti riferimenti sessuali, riferimenti ai padri dei i vostri padri che vanno con le prostitute di colore, e quello è il sesso, spiegato ai bambini delle elementari. Insomma, vicenda che vogliamo approfondire con l'avvocato Celere Spaziante, che rappresenta le famiglie degli alunni della scuola elementare in questione. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno a voi e vi ringrazio. Così come ringrazio e saluto il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Alte Professionalità della Scuola, il professor Mario Rusconi, che torna con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io mi ricordo che lei aveva di recente detto ci vorrebbero, o sostenuto la tesi dei test psicoattitudinali per gli insegnanti, magari sì, avrebbe fatto bene in questo caso. E lo ribadiamo, anche se da almeno 15 anni siamo un po' vox clamans in deserto, direbbero le persone colte, nel senso che i politici poi non raccolgono le nostre sollecitazioni, soprattutto non le raccolgono i sindacati, purtroppo. E quindi ci vorrebbero perché che ne pensa? Poi magari approfondiamo, ovviamente è tutto da verificare. Intanto, che ne pensa del fatto che la procura di Ivrea, è stato aperto un fascicolo, ha giudicato il PM non un reato queste cose? Io so che le famiglie si sono opposte, deciderà un GIP e vabbè, vedremo la vicenda processuale. Ma lei, da insegnante, che dice? Ma guardi, io non sono un giurista né un magistrato e quindi non ho la competenza per poter intervenire in quel senso, però dico che si tratta di una questione importante che rivela una grave insensatezza, se il fatto si è verificato così come riferiscono i giornali, da parte delle insegnanti. Ha fatto bene, a mio parere, prima il preside, perché la sollecitazione deve essere venuta dal preside, poi l'ufficio scolastico regionale, il cosiddetto provveditorato, a intervenire, a sospendere le insegnanti. Che poi la giustizia abbia degli aspetti che spesso a me come cittadino sfuggono è un dato di fatto mi accomuna a molti italiani. Però sa, professor Rusconi, 10 giorni fa avevamo parlato del caso dell'insegnante di Treviso che invece è stato sospeso dalla magistratura solo che dopo che da 10 anni era aperta una serie di indagini a suo carico, perché era accusato di utilizzare metodi violenti nei confronti degli alunni, e poi solo di fronte alle immagini la magistratura ha chiesto la sospensione. Quindi in quel caso la giustizia faceva il suo corso e la scuola non diceva nulla. In questo caso la giustizia per il momento pare fermarsi e la scuola è intervenuta. Ma guardi, mi sembra, sì, la scuola è intervenuta, ma mi sembra un po' come quando si leggono i giornali e viene uccisa una donna, una giovane, i cosiddetti femminicidi, e si viene a scoprire che magari quella stessa persona o i genitori per 2, 3, 4 volte si erano rivolti ai carabinieri e alla magistratura. Delle volte ci sono delle insensatezze anche nella pubblica amministrazione, perché la stessa magistratura fa parte della pubblica amministrazione, che come cittadino ho difficoltà a comprendere. Quindi ci vorrebbe per quanto riguarda i giovani, soprattutto i bambini eccetera, una grande sensibilità da parte anche del pubblico ministero. I carabinieri in effetti raccolgono le sollecitazioni dei presidi, io stesso nella mia carriera ne ho fatte diverse e sono sempre andato avanti, però poi un po' mi ricorda, lei sicuramente è troppo giovane per ricordarlo, quando venivano i primi film Osè in Italia, se si presentavano a Bolzano le si potevano vedere gambe ed altre cose, se si presentavano a Siracusa venivano immediatamente bollati come scandalosi, dai pretori dell'epoca, e quindi insomma ci vorrebbe un atteggiamento unanime e univoco almeno nei riguardi dei giovani. Sì. Vediamo se l'avvocato Spaziante ci aiuta a capire qualcosa. Avvocato, intanto voi avete fatto opposizione alla richiesta di archiviazione del PM e vabbè, questa è la vicenda processuale, ma davvero i genitori descrivevano queste maestre così, cioè i bambini ai genitori e i genitori a lei? Ma guardi, il primo approccio è stato quello di raccogliere il funesto racconto di questi genitori, sono venuti nel nostro studio e ci hanno veramente esplicitato situazioni assolutamente allarmanti. È stata una decisione del mio studio, di veicolare suddetti genitori presso l'arma dei carabinieri per immediatamente ottenere delle riprese video, perché lei capisce che un conto è il derelato, un altro conto è la cristallizzazione di un fatto davanti a una soprattutto telecamera. Quando i bambini parlano non si sa mai, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo, anch'io ho due figli che vanno all'elementare, non si sa mai quando dicono veramente la verità o quando, quando inventano e quando vanno in fantasia. Ecco, l'ingrediente che era la diffusa opinione, cioè i bambini hanno detto tutti la stessa cosa, però era un punto di partenza che andava approfondito. I carabinieri sono stati eccellenti nel loro lavoro di installazione e successivamente di raccolta di tutto il materiale. Il pubblico ministero, bisogna dirlo, poi legittimamente ha manifestato la propria opinione giuridica e noi difensori, credo con altrettanta legittimità, all'interno della procedura penale abbiamo depositato queste istanze. Sì, ma cosa facevano queste insegnanti, visto che c'è un video? È vero che lanciavano anche oggetti ai bambini, si facevano fare i massaggini a turno dai bambini, i massaggi alla spalla? Ma guardi, per risponderle esaustivamente devo scindere, cioè da una parte c'è un problema meramente dialettico, cioè utilizzo di linguaggio scurrile con allusioni sessuali al bunga bunga et similia e non vado oltre, allusioni alla morte in maniera del tutto superficiale, invitando i bambini a riflettere sulla futura morte dei genitori, cosa farete quando la mamma morirà, perché la mamma morirà. E dall'altra atteggiamenti dinamici quali il lancio di scotch verso un alunno, questo è proprio cristallizzato dalla telecamera, e soprattutto questa turnazione dei bambini che ogni 10 minuti si alzavano, si ponevano in piedi dietro l'insegnante seduta regolarmente alla cattedra, massaggiandole la base nucale e le tempie. Ripeto, tutto cristallizzato nel video. Ma ci rendiamo conto? Cioè, facevano i massaggi, i massaggini. Sì, signore. I massaggi. Ma io veramente non... verrebbe quasi da ridere se non fosse una cosa che gioca sulla pelle dell'educazione dei bambini. Vabbè. Allora, vorrei tornare dal professor Rusconi, perché ci chiedono via SMS qua che età abbiano, di che età siano queste maestre. Sono di 58 e 60 anni. Non è secondaria la questione, perché le vorrei chiedere, professor Rusconi, quali sono gli strumenti effettivi in mano alla scuola, al sistema scolastico, per eventualmente fermare persone del genere? Perché possiamo ipotizzare che non si siano ammattite a 58 anni, che magari qualcosa anche in passato lo abbiano fatto. Guardi, la scuola, vale a dire il dirigente scolastico e il preside, può sospendere fino a 10 giorni un insegnante se a suo parere sono avvenuti dei fatti gravi, fermo restando che poi l'insegnante può sempre andare a rivolgersi al giudice del lavoro, al tribunale del lavoro. Oltre questo periodo di tempo interviene l'ufficio scolastico regionale, come penso sia successo in Piemonte, ma solo questo è lo strumento, sì. Fermo restando che poi l'insegnante va dal giudice del lavoro, che può poi annullare il tutto. Allora, il problema che si pone qual è? È uno, la formazione dei docenti, perché due persone che sono arrivate a 58 e 60 anni e che non hanno ancora capito che questo approccio pseudopsicologico, direi di violenza vera e propria su bambini, è completamente sbagliato, evidentemente non hanno nessuna concezione di quello che è la psicologia dell'infanzia, dell'adolescenza, dei bambini e così via. La formazione purtroppo non esiste nel nostro paese, perché ringraziamo chi ha firmato i contratti collettivi di lavoro dal 97 98, i grandi sindacati CGL, CISL, UIL e SNAL l'hanno eliminata insieme al Ministero, e adesso nel piano della buona scuola per la prima volta finalmente il governo parla di ripristinare l'obbligo della formazione dei docenti. Il secondo punto è la valutazione dei docenti, noi ne parliamo da più di 20 anni, cioè ci deve essere un organismo interno alla scuola che non è il solo preside, come qualcuno scimmiottando. Ma è chiaro, che valuti. Insomma, viene valutato, lei per esempio viene valutato dal mercato e dal suo direttori, i carabinieri vengono valutati dai superiori, la scuola è l'unico settore di 1 milione di persone non valutabili, per cui l'inno della scuola è "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli, dico io. Ahimè sì, però ci scrive gli unici valutati sono gli studenti dai professori da tempo immemorabile, e nel nuovo piano anche della buona scuola, fra molte incongruenze, il governo per la prima volta parla di valutazione dei docenti. Speriamo che non sia semplicemente un effetto annuncio, ma un fatto a cui seguano a una concreta. Però vede, ci scrive per esempio Dennis da Padova, ci scrive: stiamo vivendo un problema simile, diteci che cosa fare. Adesso non so che problema simile, in che cosa consistano le similitudini, perché sa, cioè che fa, si deve andare dall'avvocato tutti? No, la prima cosa è l'esposto al capo d'istituto, che non può seppellire la cosa, perché se seppellisce una cosa, diciamo, che viene in qualche modo documentata e basta averlo scritto, il capo d'istituto se la seppellisce rinsabbia. Ci sono molti episodi di questo tipo, commette un reato, perché ha l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria se viene a sapere che è successo qualche cosa. Chiaramente lo metterà in senso dubitativo, perché non ha potuto verificare. No, è chiaro, farà anche lui le sue opportune verifiche in qualche modo. Interrogerà altri studenti, sentirà i professori, sentirà i genitori e poi deve fare un rapporto all'autorità giudiziaria, che in genere interviene. Poi se il giudice ritiene una cosa una pinzillacchera, come direbbe Totò, una cosa seria, questo si vedrà. Avvocato Spaziante, è un po' successo così? Cioè i genitori sono arrivati da lei o sono andati prima dal preside della scuola? No, sono venuti subito da noi. Sono venuti subito da noi perché erano intimoriti, nel senso che avevano realmente un mare nero dinanzi e non sapevano come districarsi, e ci siamo permessi di noi di veicolarli all'interno delle istituzioni preposte. Esatto. Io vorrei sentire Antonella, ci chiama da Brescia. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda al professor Rusconi. Io sono un insegnante di scuola superiore e faccio parte da 4 anni del comitato di valutazione dei docenti immessi in ruolo, che lavorano ovviamente un anno all'interno della scuola dove sono stati assegnati, vengono, tra virgolette, controllati, monitorati nel loro lavoro dal dirigente, da un tutor, e poi sottoposto alla valutazione. Discutono una tesina e vengono sottoposti a delle domande. E la sua domanda qual è? Io volevo chiedere, ma è vero che questo mi sembra veramente un assurdo della pubblica amministrazione, che il dirigente che fa parte del comitato di valutazione insieme ai docenti non può votare? Professor Rusconi, è così? Non è vero questo, è che nel piano della buona scuola, infatti prima parlavo di incongruenze, quindi non la realtà attuale, nel piano della buona scuola si parla di una sorta di valutazione per il merito dei docenti, una pseudo carriera, perché ci sono diversi errori, e in quel caso non c'è il preside, che è sicuramente una svista, speriamo non veicolata da qualche sindacato malmostoso. Sì, ma questo è, come direbbe l'avvocato, è de iure condendo, cioè delle cose che debbono avvenire. Adesso come adesso nel nucleo di valutazione il preside interviene perché lo presiede. Sì, quindi adesso c'è. Spero che Antonella sia stata chiara la risposta, cioè che siano chiariti tutti i suoi dubbi. E, professor Rusconi, per concludere, leggo nei vari articoli a dire: ora rischiano il licenziamento. Per carità, ma poi dopo ti dicono: ecco, vuoi buttare sempre sulla strada le persone? No, non voglio buttare sulla strada le persone, né nessuno. Però cioè, rischiano il licenziamento. Per fatti gravi, certo che rischiano il licenziamento. Sì, ma rischiano, ma una roba. Rischiano il licenziamento, bisogna vedere se ci sono i termini, diciamo così, giuridicamente, ne sa più l'avvocato di me naturalmente, sì, chiaro. Se ci sono gli ambiti per poterlo fare, fermo restando che poi ci sono tutte le garanzie, le tutele per il lavoratore messo sotto accusa di andare dal giudice del lavoro, che in genere è molto comprensibile. In genere in Italia sì, è così, però insomma scotch lanciati, massaggini, però rischiano il licenziamento. Va bene, staremo a vedere come va a finire. Intanto ringrazio il professor Mario Rusconi e l'avvocato Celere Spaziante per essere stati con noi. E concludo ringraziando Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Vescapè, il nostro alpino, in regia. Siamo anche su Twitter, il mio profilo Alino Milan. State allegri! Tutti allegri! A domani! Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.